Per le aziende professionisti il cloud significa potenza, risparmio e scalabilità. È la sicurezza di un data center sempre con te. Sviluppa i tuoi progetti con le migliori soluzioni cloud di Aruba.it. Ogni sera mi addormento con il cuore ben contento di ascoltare l'indomani, il Meazza e la Rosciani. Due di denari, perché i nostri soldi sono una cosa seria. Di Deborah Rosciani e Mauro Meazza. Hey, questa è la maxi storia di come la mia vita è cambiata, capovolta, sotto sopra sia finita. Seduto su due piedi, qui con te, ti parlerò di Willy, super fico di Bel Air. C'è cara fermento, temporale. C'è fermento nel settore immobiliare. Sì, allora capisco la tua indicazione che vuoi dare anche ai nostri ascoltatori. Mi sembra un po' scomodo anche per fare avanti e indietro dalla sede della radio, però non so, tu parla spiegami per te, bene. Che magari io sono più dinamica e quindi senza problemi potrei raggiungere la residenza di Willy, il principe di Bel Air, e cioè Will Smith. Sì. Che cosa ha deciso di fare? Allora, la sua casa ha deciso di renderla disponibile per tutti gli avventori di Airbnb a partire dal 29 settembre. Gruppi di massimo due residenti nella contea di Los Angeles avranno la possibilità di prenotare su Airbnb uno dei cinque soggiorni di un'ala della casa di Will Smith, disponibili nelle date 2, 5, 8, 11 e 14 ottobre. E allora, il bello di questa iniziativa è che però questo affitto disponibile, appunto, è un prezzo estremamente vantaggioso, per cui dovremmo fare un po' di salti mortali, ma forse varrebbe la pena farsi un viaggetto là dove tutto brucia in questo periodo, quindi magari non è neanche tanto una buona idea arrivare in California. Allora sì, perché leggo che sarebbe solo a un costo di $30, sì? Perché sono 30 gli anni passati da quando Will ha bussato alla porta di questa casa di Los Angeles per la prima volta, quindi soltanto a $30. Però tu stessa hai detto due residenti della contea di Los Angeles. Io adesso non so se dobbiamo guardare la circolare della contea o la circolare del signor Will Smith per sapere se dobbiamo prendere la residenza lì, spostarci lì per avere accesso a queste condizioni particolarmente favorevoli. Non vorrei che poi, sai, al momento di pagare... Insomma, vedo molti impedimenti nel poter portare a casa questa avventura. Vabbè, pazienza. Occupiamoci invece degli studenti italiani. Non tanto perché oggi tutti o molti tornano sui banchi di scuola, come stiamo ampiamente raccontando nel nostro Radio Day da questa mattina molto presto, ma noi ritorniamo su un tema che invece è tipico di Due di Denari: gli affitti per gli studenti fuori sede. Ne abbiamo già parlato la settimana scorsa, ma oggi il Sole 24 Ore ci ritorna sull'argomento. Sì, allora, secondo un sondaggio del portale scuola.net, quello scritto con la K, circa il 20% dei fuori sede che sono tornati nei paesi di origine durante il lockdown non faranno più ritorno in città. Quindi, ad esempio, alla Bocconi, all'Università Bocconi, qui a Milano, su circa 5.000 matricole in ingresso, il 90% ha scelto di seguire i corsi blended. Blended vuol dire un po' in presenza e un po' invece da remoto. Quindi saranno ragazzi che probabilmente non avranno bisogno di pagare per intero l'affitto di una stanza e potranno chiedere formule più flessibili. Durante l'estate ci sono state anche diverse disdette dei contratti in essere e immobiliare.it, che è stata proprio nostra ospite mercoledì scorso, potete trovare il podcast, la registrazione, la puntata sul sito www.radio24.it nella nostra sezione Due di Denari. Dicevo, secondo immobiliare.it c'è una impennata delle offerte di case per studenti del 290% a Milano, 270% a Bologna, 180% a Padova. Solo affitti, registra un 43% dei proprietari già disposto a ridurre la richiesta del canone pur di mantenere la locazione. Certo, a proposito tra l'altro di mattone a 360 gradi di real estate, come lo chiamano appunto gli esperti, arriva la newsletter settimanale del Sole 24 Ore. Sole 24 Ore appunto lancia questa iniziativa con cadenza settimanale, la newsletter immobiliare real estate Estate più, plus, credo che sia solo in formato digitale, vero Mauro? È così, Deborah, è in formato digitale ed è una newsletter che contiene le nuove tendenze sulla domanda, sull'offerta, soprattutto degli asset commerciali, ma anche per quanto riguarda le abitazioni e poi naturalmente le inchieste, le indiscrezioni, insomma tutto quello che abitualmente già i lettori e i navigatori trovano sia sulle pagine Sole 24 Ore sia appunto sul sito del Sole 24 Ore. A proposito di casa e naturalmente di mutui, allora ne approfitto per anticiparvi già il tema che approfondiremo questa mattina nella seconda parte della trasmissione. Vi ricorderete quella che è stata una delle grandi emergenze tra marzo ed aprile, cioè l'impossibilità per molte famiglie di onorare la rata del mutuo e quindi in molti hanno dovuto chiedere alla propria banca la sospensione del finanziamento e in molti hanno potuto accedere anche alla cosiddetta moratoria Consap, cioè il fondo Gasparrini, questo fondo di solidarietà che viene incontro proprio alle esigenze di tutte quelle famiglie che hanno dovuto sospendere momentaneamente il mutuo per la propria casa. E allora oggi ritorniamo a parlarne, a fare un punto della situazione, perché le possibilità offerte per le persone in difficoltà erano molte, cioè di sospendere il mutuo per 6, 12 o 18 mesi. E allora ci siamo chiesti perché ha sospeso per 6 mesi e a breve deve ritornare a pagare. Come sono messe queste famiglie? Avranno bisogno di procrastinare, di allungare questa scadenza? E quindi cercheremo di capire con l'esperto, il funzionario di Consap, se questa facoltà sarà data. Noi speriamo che non ce ne sarà bisogno, che non ce ne sia bisogno. Però insomma non è che proprio navighiamo in un momento molto favorevole per quello che riguarda l'economia. Molte persone ancora dal punto di vista del lavoro sono in difficoltà e quindi eccoci qua pronti a ridarvi tutte le istruzioni eventualmente per chiedere l'adesione ad un allungamento del fondo Gasparrini. Se volete iniziare a prenotare i vostri interventi potete farlo all'800 24 00 24, scriverci al 349 238 6666. Accettiamo SMS ma anche messaggi WhatsApp. Naturalmente abbiamo anche sempre una casella di posta elettronica, duedidenari@radio24.it. Vedo però lo sguardo perplesso di Gianmarco Ferronato dall'altra parte del vetro in regia, perché dice però oggi sarebbe lunedì e mi dicono che il lunedì c'è Meteo Borsa. Non so se vogliamo sovvertire questa tradizione. No, perché non vorrei offenderlo, che non c'è quasi mai lui in regia con noi, quindi noi siamo dei soldatini ligi al dovere. Prego. Meteo Borsa. Allora, visto che è un insaziabile della correttezza della tenuta della nostra trasmissione, gli presento anche il nostro ospite di questa mattina. Buongiorno e bentrovata Massimiliano Maxia, specialista per il mercato obbligazionario di Allianz Global Investors. Buongiorno e benvenuto. Buongiorno. Allora, ti scatto la fotografia della borsa, dell'andamento di questa giornata. Sentiamo. Sai che ti faccio sempre la Polaroid, sì, che è un termine un po' anacronistico perché non esistono più, però insomma scatto una foto con lo smartphone eventualmente. Allora, la borsa era partita molto bene stamattina in Europa, avevamo dei guadagni di più di mezzo punto e qua invece si è un po' smosciata tutta la situazione molto rapidamente. Milano è girata in negativo, -0,20%, Parigi -0,3%, Parigi +0,3%, Francoforte +0,05%, Londra +0,2%. Stamattina è andata benino Tokyo, ha guadagnato lo 0,6%, è arrivato il nuovo premier che succede a Shinzo Abe, è arrivato Yoshihide Suga, era uno dei più stretti collaboratori appunto del vecchio premier e quindi c'è una soluzione, una come dire, situazione di continuità per quello che riguarda il governo nipponico. Ma la grande osservata speciale è ancora la tecnologia, Mauro, hai sentito anche nel giornale radio il pezzo di Marta Cagnola che ci racconta di questa grande operazione di questa mattina. Il colosso SoftBank ha messo in vendita Arm Holding, l'ha comprata Nvidia, 40 miliardi di dollari, una grande operazione, ma quello che abbiamo sottolineato anche nei collegamenti di borsa di questa mattina è che SoftBank è la società finanziaria che era stata un po' accusata nelle settimane passate di aver scatenato anche questo piccolo scoppio di questa piccola bolla sul mercato appunto della tecnologia statunitense, piccola per modo di dire, ma non è scoppiato un bel niente, ma qualche movimento un po' di volatilità l'abbiamo visto. Ma infatti io mi ricordo, Deborah, e giro subito la questione a Massimiliano Maxia, mi ricordo che tu stessa ammonivi su queste quotazioni molto elevate di tutto il settore tecnologico con delle società che avevano veramente delle quotazioni molto molto molto alte. Maxia, è una bolla, non è una bolla? Che cosa dobbiamo dire a chi magari è interessato o ha investito o ha puntato molto sul settore tecnologico in generale? Ma non credo che sia una bolla, chiaramente il settore tecnologico è stato particolarmente favorito dalla situazione che abbiamo vissuto durante i mesi del lockdown, quindi la tecnologia è stato un settore ampiamente favorito per effetto dello smart working e di tutto quello che abbiamo passato in questi mesi. Un minimo di correzione era attesa, le valutazioni sono sicuramente alte, e c'è stata sicuramente una fortissimo andamento del mercato a partire dalla fine del mese di marzo. Questo probabilmente è un momento abbastanza, diciamo, interlocutorio. Il mercato azionario forse vuole delle conferme o ha bisogno delle conferme dal punto di vista dell'economia, nel senso che gli indicatori, i principali indicatori macroeconomici che stiamo vedendo in queste settimane sono sicuramente in ripresa. Il mercato si chiede quanto questa ripresa, che va normale dopo la chiusura e la riapertura delle attività produttive, quanto questa ripresa sia sostenibile. Perché il mercato azionario continui, soprattutto negli Stati Uniti, nel buon andamento che ha avuto dall'inizio, dal periodo di marzo-aprile, sono necessarie probabilmente delle conferme dell'economia. Finora la situazione sembra abbastanza positiva, sia negli Stati Uniti che in Europa, anche in Italia. I principali indicatori macroeconomici sono in ripresa, bisogna capire quanto questa ripresa sia sostenibile nel corso dei prossimi mesi. Sarà interessante anche monitorare le indicazioni ancora una volta della Banca Centrale Americana. Il meeting della Federal Reserve è a metà settimana, siamo reduci dall'importante riunione del direttivo della Banca Centrale Europea, ma prima di arrivare a questo, Maxia, proprio in virtù delle sue competenze, le chiederei invece che aspettative ci sono sul fronte del mercato obbligazionario italiano, perché siamo alla vigilia di un appuntamento elettorale importante per quello che riguarda il nostro paese, quello del weekend. Lo spread sembra abbastanza stabile in questo periodo, continuiamo a muoverci intorno ai 150 punti senza grande fermento né in territorio superiore né inferiore, e quindi secondo lei, insomma, il mercato da questo evento del weekend che cosa si aspetta? Ma diciamo che potrebbe essere un possibile fattore di instabilità, perché il quadro è sicuramente incerto, nel senso che le previsioni su alcune delle regioni più importanti, in particolar modo probabilmente la Toscana e la Puglia, non sono semplici da fare, e in prossimità del weekend quindi potremmo vedere anche un piccolo aumento della volatilità. Però c'è un altro tema molto importante che abbiamo visto nel corso dei giorni precedenti: tutte le aste italiane sono andate estremamente bene, con richieste molto molto superiori a quella che era la possibile offerta. Mi riferisco per esempio all'ultima sul titolo a 20 anni, dove abbiamo avuto una richiesta di più di 80 miliardi a fronte di una emissione che è stata alla fine di circa 10 miliardi. Il mercato ricerca rendimento, soprattutto sul mercato obbligazionario. L'Italia offre ancora dei rendimenti, soprattutto sulle scadenze più lunghe, decisamente più interessanti, decisamente più attraenti rispetto a quanto viene offerto dagli altri paesi dell'area euro, e questo è un fattore positivo, perché eventuali situazioni di volatilità rappresentano di fatto un'opportunità di acquisto. E poi non dobbiamo dimenticarci che comunque c'è sempre la Banca Centrale Europea che compra, e quindi è sempre pronta a intervenire nel momento in cui la volatilità dovesse aumentare. Quindi le elezioni potrebbero essere un fattore importante, ma credo che tutto sommato non cambieranno la situazione che vediamo in questo momento, cioè, come diceva lei, di uno spread che tutto sommato rimane sotto controllo. Grazie a Massimiliano Maxia, che è specialista del mercato obbligazionario di Allianz Global Investors. Grazie della sua decifrazione, di averci aiutato a decifrare come si comporteranno i mercati in questa settimana. E adesso, cara Deborah, io farei un rapido giornale radio del risparmio, con il tuo permesso. Prego. Deborah Rosciani e Mauro Massa risolvono tutti i problemi di cassa. Quasi che mi aspettavo Marilyn Monroe, ma niente, Marco ha deciso stamattina di iniziare più aggressivo, meno suadente, e evidentemente la notizia richiede un approccio di questo tipo. Ritorniamo sull'investimento in diamanti. Sì, perché qui ogni tanto, stava, guarda, a volte ritornano. Ci stava bene Mahmood, volevo solo i soldi, soldi e poi clap clap. E poi ciao ciao, sì. Perché? Perché la Banca Popolare di Bari è stata condannata a risarcire un acquirente di diamanti da investimento. È una vicenda di cui abbiamo parlato. parlato innumeri volte. E la sostanza è che anche in questo caso, secondo quanto ha appurato e asseverato il giudice, la banca ha venduto ai clienti questi diamanti a prezzi molto più alti di quelli effettivi. Perché? Perché, come ricorderete, le quotazioni erano autoprodotte e quindi non scontavano appunto l'esistenza di un mercato che potesse indicare qual era il corretto valore, ma erano attribuite dallo stesso venditore e poi da lì trasmesse alla banca che le applicava alla clientela. Tutto questo è stato, secondo il giudice di pace di Bari, giudicato una cosa scorretta e quindi la Banca Popolare di Bari è stata condannata a risarcire il valore dei diamanti da investimento che era stato pagato all'acquirente. Iniziativa che è stato possibile raggiungere appunto grazie al lavoro di Confconsumatori, nello specifico dell'avvocato Antonio Pinto, che abbiamo avuto modo di ospitare spesso qui nel nostro programma. Peraltro mi sembra di poter dire, se ho capito bene Mauro, che l'importanza di questa sentenza sta nel fatto che viene dichiarata la responsabilità contrattuale solidale della società che ha appunto prodotto il diamante e venduto alla Banca Popolare di Bari, la stessa Popolare di Bari. Quindi entrambe hanno la responsabilità di aver collocato presso l'investitore un prodotto che appunto era messo in vendita a prezzi non in linea con il mercato, anzi a prezzi superiori di oltre il doppio del loro valore reale commerciale. A proposito di rimborsi, allora, dopo una lunga fase di confronto con le regioni, sono state pubblicate sul sito di Trenitalia le modalità per chiedere il rimborso in ogni regione. Trenitalia, le richieste di assoutenti, comitati pendolari, assoutenti, comitati pendolari con essa confederati, avevano chiesto al Ministero dei Trasporti e al Coordinamento delle Regioni di prevedere tra le varie modalità del rimborso anche quella in denaro, anziché prevedere soltanto il rilascio di voucher. Allora, la motivazione è stata la constatazione che molti abbonati non avranno più la necessità di viaggiare per recarsi al posto di lavoro, e qui dovremmo aprire naturalmente tutto il filone smart working, che è stato e cosa ci aspetta, ma noi nei mercoledì del lavoro avremo sicuramente occasione per parlarne. E la disponibilità della direzione regionale di Trenitalia è stata segnalata positivamente da Assoutenti, che invece critica il silenzio di Ministero e Regione. Ecco, a proposito di viaggi annullati peraltro, ma che cosa ne dici domani di fare un piccolo approfondimento nella prima parte della nostra trasmissione prima dell'alfabeto del risparmio? Ma certo, lo dici perché hai letto il Sole 24 Ore e soprattutto le pagine di norme e tributi, sempre, che sempre tutte, vanno lette religiosamente. Sempre tutte queste casualità si consumano in questa trasmissione, chissà come mai. Allora lì l'avvocato Marisa Marraffino, che è un'amica di Due di Denari, ci segnala che appunto ci sono le norme UE che contrastano una volta di più con la normativa italiana, che impedisce il rimborso in contanti ma prevede soltanto quello per voucher. Peraltro oggi con il Sole 24 Ore poi trovi in edicola anche, insieme proprio al Sole 24 Ore, questo allegato, è un report ricerca e lavoro che è stato realizzato dall'agenzia di stampa Radiocor in collaborazione con INAP. Lo favorisco, guarda, ce l'ho casualmente in mano. Anche allora questo. Chi ci segue sul Facebook ma anche sullo YouTube potrà vedere in anteprima questo, oppure ritirarlo comodamente in edicola acquistando il Sole 24 Ore. Questo è una prima tappa di un progetto INAP, l'Istituto Nazionale per l'Analisi delle Politiche Pubbliche, un progetto che si declinerà via via nelle prossime settimane. Lo scoprirete solo ascoltando, mi viene da dire, Debora. L'ultima notizia prima del dillo a Due di Denari, prima del meteo borse, prima di dare il via al nostro approfondimento di oggi, è in realtà una notizia che ci consente proprio di lanciare poi l'approfondimento che avremo nella seconda parte del programma. Si allarga la platea degli italiani indebitati anche durante l'emergenza sanitaria. Nei primi sei mesi di quest'anno è cresciuta di quasi il 5% l'incidenza della popolazione con linee di credito attive sul totale dei residenti maggiorenni. Il Covid non ha frenato, anzi forse ha alimentato la corsa ai finanziamenti da parte delle famiglie, mutui, prestiti personali e finalizzati, in atto già da alcuni anni. Nel frattempo il debito però diventa più sostenibile. In base alle elaborazioni di CRIF, la rata media è scesa a 333 euro al mese. Abbiamo un calo del 3,2% rispetto al semestre precedente e l'esposizione media residua si attesta intorno ai 32.200 euro. La platea di consumatori che hanno attivato un mutuo o un prestito, dicono da CRIF, secondo quanto quanto scrive Michela Finizio stamattina sulle Sole 24 Ore, è cresciuta ulteriormente negli ultimi mesi, ma sempre ponendo grande attenzione alla sostenibilità degli impegni assunti. Per chi invece non ce la facesse a pagare, ci sono le moratorie, c'è il fondo Gasparrini, c'è l'iniziativa di Consap di cui parleremo a partire dalle 11.30. Adesso dillo a due di denari e poi io direi senza soluzione di continuità, sì? Le borse. Dillo a due di denari. Siamo in provincia di Vicenza, il cambio di stato. Io volevo chiedere, perché sul sito dell'INPS ci ho provato più di una volta, ma una decina di volte a entrare per chiedere il codice della lotteria per i bancomat, per le carte. E non trovo la pagina per poter chiedere il codice, sinceramente non si trova. Ci ho provato mille volte ma non ci sono riuscito. Se potete dare qualche indizio, ciao, grazie. Aspetta Mauro, allora prima di fare la borsa qua dobbiamo accontentare l'ascoltatore. Dov'è la lotteria degli scontrini? Dove è finita? Devi andare sul sito lotteriadegliscontrini.gov.it, sì. Però il codice non c'è. Perché? Perché la lotteria degli scontrini è stata rinviata. Partirà dal 1 gennaio 2021. Adesso io ho detto partirà dal 1 gennaio 2021. Direi aspettiamo. La partenza della lotteria degli scontrini, ripeto l'indirizzo, lotteriadegliscontrini.gov.it. L'avvio di questa lotteria è previsto attualmente dal 1 gennaio 2021. Ma sai che poi tutto questo si collegherà anche con il cosiddetto cashback che parte, esatto, prima, però, perché parte a novembre. Quello. Che dovrebbe. Sempre condizionale, devo usare. Non so quanto sei grammaticalmente pignolo, sempre. Guarda, di certo ci sono solo le quotazioni di borsa. Rosciani, Meazza, portano la borsa alla piazza. Fineco, è tempo di investire con noi. Vi presenta Due di denari. È il mutuo, il pensiero peggiore del mondo. Forse non il peggiore del mondo, però diciamo che di questi tempi, ecco, non era quello che ci metteva più tranquilli. C'è stata però la possibilità, come appunto Deborah hai ricordato, di ottenere una sospensione. E questo è un effetto dell'applicazione ampliata proprio a causa della pandemia di una norma che esiste da tempo, il fondo cosiddetto Gasparrini, per sospendere appunto la rata del mutuo in caso di difficoltà. Abbiamo di nuovo interpellato Vittorio Garone, responsabile unità di business fondi di solidarietà e di sostegno di Consap. Buongiorno, benvenuto a Due di Denari. Buongiorno a voi, bentrovati. Allora, abbiamo lasciato un po' in pace nel corso dell'estate dopo averlo messo sotto pressione per il mese di aprile, quando il dottor Garone, proprio per raccontarci tutte quelle novità, si era reso particolarmente disponibile con noi per raccontarle a tutti gli ascoltatori. Adesso chissà se ne abbiamo di novità anche in questo giro, Mauro. Ma intanto lo chiederemo subito al dottor Garone. Come sta andando? Perché facendo due conti così, chi ha chiesto e ottenuto la sospensione da subito, da marzo, perché il decreto che è intervenuto era proprio uno dei primissimi di quelli da pandemia, era il 9 del 2020, potrebbe adesso andare verso la fine di questa sospensione e quindi 6 mesi. Ma se la situazione non è cambiata, che può fare, dottor Garone? Allora, intanto la sospensione può essere chiesta anche per più periodi, fino al massimo di 18 mesi, per cui chi l'ha chiesta, come la maggior parte abbiamo visto che l'ha chiesta solamente per 6 mesi, nel caso in cui il datore di lavoro dovesse prolungare il periodo appunto di riduzione dell'orario di lavoro o di non lavoro effettivo, il cittadino può chiedere ancora un ulteriore periodo di sospensione. Questo è un tema interessante, dottor Garone, perché effettivamente noi avevamo avuto la sensazione di una emergenza molto importante in quel periodo, e però le famiglie insomma hanno un po' voluto dire prendiamoci questo ammortizzatore per pochi mesi, ma magari poi riprendiamo a pagare quanto prima possibile. È interessante questo aspetto, che effettivamente, oppure non c'erano i requisiti economici per poter chiedere delle sospensioni più prolungate? No, era proprio la norma che prevedeva un diverso periodo di sospensione a seconda dell'interruzione del lavoro, cioè si poteva chiedere 6 mesi se la sospensione o la riduzione del lavoro fosse stata tra i 30 e i 150 giorni, 12 mesi tra 151 e 300 e 18 mesi che è la misura massima solo nel caso di sospensione o riduzione oltre i 300 giorni. Quindi probabilmente quello che registriamo è che la maggior parte aveva avuto delle sospensioni dal lavoro per non più di 5 mesi, ma se la situazione, come speriamo noi non succeda, ma dovesse prolungarsi questi periodi di assenzione al lavoro, il mutuatario può chiedere comunque fino a 18 mesi. Se per caso adesso si interrompe, non c'è la necessità, ma poi, perché tutti temiamo, adesso c'è un regime molto particolare per il lavoro, c'è un blocco dei licenziamenti, eccetera, eccetera. Avere richiesto questa misura impedisce poi di tornare a richiederla, che so, a gennaio? No, la misura può essere richiesta, ripeto, nell'ambito però per lo stesso evento causa fino a 18 mesi. Per ulteriori eventi possono essere chiesti anche nuovamente nuovi periodi di sospensione. Per lo stesso evento però può essere chiesto fino a 18 mesi. Dottor Garone, forse vale la pena però richiamare la differenza fra lo strumento Fondo Gasparini e tutte le iniziative di moratoria che individualmente le banche possono rendere disponibili alla propria clientela, perché ci è capitato molto spesso appunto di sentire, di aiutare ascoltatori che ci hanno scritto nei mesi passati e di suggerire loro di intanto chiedere in prima istanza alla banca che cosa potesse fare ed eventualmente appunto poi approfittare dell'iniziativa Ministero dell'Economia, quindi Consap e quindi Fondo Gasparini. Ci può spiegare effettivamente qual è la differenza nel percorrere l'una rispetto all'altra strada? Sì, guardi, intanto il cittadino può recarsi anche in banca o guardare sul nostro sito di Consap, dove sono spiegate tutte le casistiche per cui è ammissibile, diciamo, e si può fare domanda al Fondo Gasparini. Sostanzialmente il Fondo Gasparini va a tutelare i mutui sulla prima casa, quindi è necessario che vi sia la residenza nell'immobile per cui è stato chiesto il mutuo che si vuole sospendere. Per altre ipotesi le banche concedono delle moratorie anche per seconde case o casi diversi e comunque ci si può rivolgere alla propria banca che darà tutte le istruzioni. Inoltre il Fondo Gasparini ha dei casi di accesso al fondo ben determinati, che sono appunto quelli o della riduzione del lavoro o per almeno il 20%, o i casi di per i lavoratori autonomi o artigiani e commercianti che abbiano subito un calo del proprio fatturato rispetto all'ultimo trimestre 19 di oltre il 33%, e poi bisogna aver anche per periodi in caso di ammortamento da meno di un anno è possibile accedere al fondo, quindi sono delle ipotesi ben delineate che si possono comunque verificare sulla normativa o anche sul sito nostro. Fatto bene a ricordare quest'ultimo aspetto, perché ricordiamo appunto che effettivamente inizialmente per chi avesse sottoscritto un mutuo da pochi mesi e poi improvvisamente, come è capitato a molti, fra febbraio e marzo si è trovato senza lavoro, magari il mutuo era partito appena dicembre, novembre, effettivamente, come dire, in teoria non c'era la possibilità di chiedere la sospensione e poi è stata, come dire, consentita proprio in corsa il provvedimento. È vero, perché non era la normale operatività del fondo, dico bene, perché tra l'altro poi erano state farate anche delle ulteriori novità intorno al mese di aprile, cioè dopo la prima attivazione del decreto del fondo causa Covid, era stata estesa la platea che poteva richiederlo, giusto dottor Garone? Sì, erano stati innalzati i limiti del mutuo da 250.000 a 400.000 euro, quindi si comprendeva una fetta più ampia di mutuatari che potevano fare domanda al fondo, e in particolare anche chi avesse già fatto la richiesta al fondo prima casa, che è un analogo fondo che gestisce sempre Consap, per cui c'è una garanzia che viene concessa alle banche nel momento in cui il cittadino dovesse acquistare la prima casa, anche questo era escluso dalla possibilità di chiedere la sospensione, e poi con il decreto di aprile è stato esteso anche a questi soggetti. Leggo un messaggio di un ascoltatore, non è per lei dottor Garone perché non stiamo parlando nel caso di questo ascoltatore di un mutuo prima casa, però ci faceva piacere in ogni caso dare attenzione al messaggio del nostro amico. Sono un agricoltore che ha bloccato il mutuo ipotecario sul terreno fatto per acquistarlo, la cantina di cui sono socio conferitore è in difficoltà perché le uve non stanno venendo pagate. Come posso prorogare il mutuo di altri 6 mesi? Io immagino insistendo molto con la banca, qua non stiamo parlando appunto del raggio d'azione di Consap e quindi mutuo prima casa. Se vuole ci scriva a duedidenari@radio24.it come abbiamo fatto tante altre volte per tantissimi ascoltatori. Intermedieremo per lei presso l'istituto di credito e vedremo se potremo aiutarla. Però a parte il fatto che sia un socio di una cooperativa, immagino questo ascoltatore, dottor Garone, ci dà il pretesto per raccontare di questa recente novità che riguarda sempre la possibilità di sospendere il mutuo e in particolar modo riguarda questa novità le cooperative edilizie. Sì, perché, sì proprio nel mese di luglio, questa è l'ultima in termine cronologico, è stata introdotta anche come ambito soggettivo l'ipotesi di poter accedere al fondo Gasparini per le cooperative edilizie a proprietà indivisa, che appunto per le quali almeno il 20% dei soci siano incappati in una dei casi per cui c'è la possibilità di ammettere al fondo e quindi la cooperativa può richiedere la sospensione dell'intero mutuo che è stato concessa per la costruzione di un palazzo o di una serie di villette, purché appunto il requisito sia che il 20% dei soci abbiano subito un evento previsto dalla normativa. Beh, insomma, 20 significa quindi 20 proprietari di unità immobiliari, appunto, che cioè comunque è un requisito ingombrante, però mi sembra. Un 20% possono essere anche, non so, da 10 proprietari, due basta che sì, due certo. Soci abbiano subito l'evento. Ma sempre tutto relativizzato, naturalmente. Certo. Certamente. Allora, ecco, qui quindi. Ci sarebbero diverse domande che stanno, come sempre, arrivando, quelli che chiedono, sì, ma poi quando riprendo che cosa effettivamente devo pagare, esatto. Eccetera, eccetera. Che cosa sospendo effettivamente? Poiché la risposta non è brevissima, io chiedo un attimo di pazienza al dottor Garone e noi invece andiamo ad ascoltare la viabilità, cioè il traffico. Ogni venerdì a Due di Denari torna al momento poetico. Partecipa anche tu sfidando il sommo poeta titolare Mauro Meazza a comporre un sonetto su un tema a tua scelta. Ma ricorda, l'argomento dovrà essere tratto dalle nostre trasmissioni. Investimenti, risparmi, mercati, tasse, pensioni, leggi. Se sei pronto per questo duello a colpi di poesia, non ti resta che scriverci a duedidenari@radio24.it. La finanza è poesia. Due di denari. Aiuto, aiuto, ho fatto il mutuo, ho acceso un mutuo. Aiuto, aiuto, ho fatto il mutuo, ho preso un mutuo. Allora, avevi una domanda in sospeso col dottor Garone, la potresti ribadire cortesemente? Ma volentieri, perché poi è una domanda qui universale. Ci arrivava ad aprile, ci arrivava a marzo, certo, un evergreen, sempre verde. Ho sospeso, ho ottenuto la sospensione, dottor Garone, non io, parlo genericamente. E abbiamo ottenuto la sospensione, adesso si riprende, ma cosa si va a pagare? Cioè, riprendo con la stessa rata di prima, ho un extra in più da pagare? Che cosa mi succede allora, esattamente? Dunque, per quanto riguarda il piano di ammortamento, riprende da dove ci si era fermati, quindi il numero di rata che si era sospeso si riparte da lì, quindi poi la durata del mutuo verrà prolungata del periodo corrispondente alla sospensione. Per quel periodo va però pagata anche una parte, perché lo Stato con questa iniziativa corrisponde il 50% degli interessi compensativi per il periodo di sospensione alla banca e quindi l'altro 50% rimane a carico del mutuatario. Dopodiché però le banche, per venire incontro ovviamente in questo periodo anche di difficoltà, può rimodulare in qualche modo il piano di ammortamento e dilazionare questo surplus che va pagato. Spalmare questo residuo su tutto il residuo del piano di ammortamento. Anche per il periodo totale del piano di ammortamento. È Però qualcuno qualche sorpresa ce l'ha avuta. In realtà, con questa concentrazione di tutto questo che non era stato pagato, praticamente già nelle prime rate di ripresa del pagamento, ci è capitato di intervenire qui in radio con qualche ascoltatore, appunto, che ha avuto anche questa disavventura con la banca che ha chiesto subito questo denaro. C'è un altro caso che è un pochino simile ma diverso, uguale ma diverso, verrebbe da dire, che ci viene segnalato da Angelo, che ci ha chiamato da Bergamo. Buongiorno Angelo. Buongiorno. Ci dica, ci chieda. Allora, io vi seguo sempre e sono contento della vostra trasmissione. Bene. Grazie. Allora, qual è il suo caso? Allora, mio figlio è titolare del mutuo della prima casa e ha un contratto a termine da marzo a settembre. Sì. Allora, è stato assunto a marzo, ad aprile hanno fatto cassa integrazione fino a metà maggio. Sì. Allora, la banca, di sua iniziativa, ha concesso 3 mesi di sospensione della rata del mutuo. Però mi ha detto, fai la domanda alla Consap per gli altri eventuali 3 mesi, per arrivare ai 6 mesi previsti. Cioè, chi gliel'ha suggerito, la banca? Oppure la banca. Ok. Perché loro hanno un ufficio moratoria mutui collegato alla Consap. Io ho fatto tutta la documentazione, ho spedito eccetera eccetera e mi hanno risposto l'ufficio della banca, quello della moratoria, mi ha risposto che oramai mio figlio aveva ripreso il lavoro e non era più possibile, era più possibile mandarle a Roma. Infatti, la richiesta. Il requisito minimo, però, diciamo, è se ho compreso bene, il contratto di suo figlio scadrebbe a fine di questo mese, a fine settembre. Esatto. Quindi lui da ottobre, noi ci auguriamo di no ovviamente, ma potrebbe di nuovo essere nella condizione di non avere un impiego. Occupato, chiaramente. Però al momento, allora, ce l'ha, quindi sentiamo che come si può decifrare, dottor Garone. Allora, no, la sospensione può essere richiesta anche se l'evento è stato subito, diciamo, da 3 anni a questa parte, quindi se si rientra nei requisiti per cui si può accedere al fondo Gasparrini, anche se la situazione è mutata rispetto a precedenza, si può fare domanda, quindi è opportuno verificare bene se si rientra tra i requisiti e poter fare domanda anche se l'evento, ripeto, è lontano nel tempo. Tra l'altro volevo aggiungere, oltre al caso di riduzione o sospensione del lavoro, il fondo, e questo lo faceva anche prima della legislazione, diciamo, in materia Covid, di emergenza Covid, prevede l'ammissibilità al fondo nel caso di licenziamento anche termine del periodo di lavoro a tempo determinato, diciamo. Quindi, ripeto, bisogna vedere bene, se ora non conosco bene la situazione, ma suggerisco di verificare, perché in questo caso anche è possibile accedere al fondo. Se malauguratamente non viene rinnovato il contratto, potrebbe richiedere l'accesso al fondo. Deborah, vogliamo sentire Matteo? Altro che Matteo, benvenuto, perché qua dobbiamo ritornare nel variegato e variopinto mondo dei lavoratori autonomi, ditte individuali, perché si era fatta anche una grande discussione attorno a questa differenza. Matteo da Milano, buongiorno. Sì, buongiorno. No, esatto. La questione è un po' questa. La mia compagna è socia comandataria di una società di persone e non lavoratrice, quindi nel senso che non ha un contratto da dipendente, ma è iscritta regolarmente all'assicurazione generale obbligatoria. Se non sbaglio, la normativa prevede anche la possibilità di accesso per tutti i lavoratori autonomi iscritti all'AGO. Però dal nostro istituto ci è stato risposto che la Consap ha rifiutato la domanda perché il soggetto non è tra quelli beneficiari, e quindi ci sembra un po' strano. Certo, allora anche qua, non avendo le carte disponibili e tutti i punti precisi di questo profilo, possiamo dare una risposta superficiale. Dottor Garone, la sua sensazione, che cosa può essere successo in questo caso? Guardi, questo è uno dei punti più controversi, diciamo, su cui abbiamo trovato più con difficoltà, nel senso che la norma prevede che il soggetto sia residente nell'immobile e deve aver avuto subito un calo di fatturato, quindi diciamo, l'ammissibilità al fondo è esclusivamente diciamo, riservata ai lavoratori autonomi o artigiani o piccoli imprenditori, ditte individuali, che abbiano subito questo calo del fatturato e risiedano nell'immobile. Per i soci di società in generale, anche se di persone, diciamo che non è riferibile il calo del fatturato con la residenza nell'immobile, perché il fatturato è in capo alla società, non è in capo direttamente alla persona. Quindi questa mancanza di collegamento diretto diciamo, di fatto esclude la possibilità di accedere al fondo. E non è possibile neanche arrivarci in via interpretativa, cioè dire vabbè, però insomma, alla fine, specialmente con una società di persone, c'è una specie di trasmissione diretta, per dir così, dal reddito della società. Quelli che sono diciamo, ammessi sono i collaboratori coordinati e continuativi, ma come fattispecie di lavoratori autonomi. I soci di società, abbiamo anche chiesto, verificato insomma, l'ipotesi anche con il ministero concedente, che poi è il Ministero dell'Economia, e effettivamente non parrebbero esserci i presupposti, quindi noi al momento li stiamo rigettando. Allora, sì, c'erano anche altre telefonate, non riusciamo a mandare in onda, però ne voglio sintetizzare io una, perché ci consente di ribadire i requisiti per ottenere la sospensione secondo i criteri del Fondo Gasparrini. Ecco qua, Marco ce l'ha messa, ha fatto benissimo. Savino dalla provincia di Vicenza, sarei proprio andata a sintetizzare questo caso velocissimo, perché tra un minuto chiudiamo, grazie. Sì, grazie. Allora, io ho fatto la richiesta di un anno di sospensione, sì. Mi hanno concesso 6 mesi e mi hanno detto che gli altri 6 mesi non me li hanno concessi perché la mia cassa integrazione non era superiore ai 6 mesi. Sì. Dato che ho avuto adesso la ulteriori 2 settimane di cassa integrazione, secondo lei posso rifare la richiesta sempre col fondo Gasparrini? Per altre 2 settimane di cassa integrazione, dottor Garone? Guardi, se supera i 150 giorni può chiedere altri 6 mesi. Perfetto, quindi deve fare un calcolo. Grazie, telegrafico chiarissimo. Efficacissimo. Dottor Garone, lei lo sa che deve restare a disposizione di Due di Denari, non lasci vero? Il paese, sempre. Non lasci il paese. Sono sempre disponibile, ovviamente. La ringraziamo molto di questo. Grazie a Vittorio Garone, responsabile grazie a voi. Dell'unità di business fondi solidarietà di sostegno di Consap. Bene, visto che è cominciata la scuola, io vado a studiare l'alfabeto. L'alfabeto del risparmio, domani, mi raccomando, stessa ora, stesso canale, stessa emittente. È ora di avere un sito internet, è ora di vendere i tuoi prodotti online, è ora di farlo da solo, perché è facile, perché tu puoi, con Supersite su Aruba.it.